e voglio ringraziare come al solito tutti voi che ci avete seguito e salutare velocemente anche Fergal che sta per arrivare. Hi there Alex, già arrivato, eccomi qua. Eccolo qua, tra pochissimo vi farà ascoltare 60 minuti di buona musica, quella che non, insomma, non ascoltate normalmente in nessuna radio. Saluto anche Roberto che ha curato la parte tecnica e Umberto Prea che ci ha informato per tutto il pomeriggio e lo farà anche tra pochissimo. Mi raccomando, buon giovedì sera, vi aspetto domani sera a partire dalle 21. Ciao da Alex. Dopo il notiziario. Welcome to the future. Southside. Alle 18 l'appuntamento con l'informazione. You're very welcome to Southside questo giovedì pomeriggio e avremo 60 minuti della musica più bella da ascoltare. Abbiamo Roberto Bottoni ai controlli. My name is Fergal Cavan and siamo with Madonna. Outside. Allora lei è entrato subito in classifica in inglese le settimane scorse con questo al numero 7. Questa versione che abbiamo proposto a voi oggi è un remix fatto da Tracy Young. E Madonna è proprio la donna del momento. Stamattina proprio è andato in vendita tutti i biglietti per il suo unico concerto in Inghilterra, a Londra anzi. E nonostante il fatto che i biglietti costano tra i 100.000 lire e i 250.000 lire, cioè un sacco di soldi, sono stati esauriti subito questi biglietti. Perciò ha aggiunto ben 3 performance e questi si sono esauriti subito pure, nonostante il caro prezzo. E perciò sta considerando di mettere un 5º spettacolo. E vediamo tutto questo a luglio. Comunque, brava Madonna. Questi sono i Bent. Nuova musica molto bella, le voci di Zoe Johnson. This is Swollen. Just hold on to me.

The Stereophonics, Just Enough Education to Perform, è il nome dell'album che è al numero uno nel Gran Bretagna al momento, e loro hanno programmato due grandi concerti quest'estate in Inghilterra. Allora a luglio saranno a Donington Park, un po' di polemica per questo show perché Ozzy Osbourne voleva suonarci, però il loro contratto dai Stereophonics dice che nessun altro li può suonare se suonano loro, e poi pure a Cardiff dove hanno dovuto spostare il concerto a causa dell'afta. Ecco Kings of Convenience. Sky, the birds are pulling rain. In your life, a curse has got a name. Makes you lie awake all through the night. That's why. She's intoxicated by her. Every night she kisses someone new, never you. Darling, gone to the end, to the world in love. gli più grandi di voi riconoscereste questo pezzo dai Steppenwolf, It's Born to be Wild, e questo è in versione dopo il gruppo australiano da Michael Hutchins, that's In Excess, bello questo. Allora ragazzi, il mio indirizzo email se mi volete contattare è fergal@kisskissnetwork.it, e voglio dire, questa è la penultima edizione di Southside, però non vi preoccupate, Stereo MCs. This day I found my friend is inside my own mind and sold a key. Spirit is letting go and letting the people know. But this ain't the time and this ain't the place to test me. This ain't the face to judge, don't stress me. This is the place, this is the time. My enterprise and this my rhyme. Southside, here we go. Myself in you see. Bittersweet and Back Around on Southside on Radio Kiss Kiss Network. My name is Fergo Cavano, Roberto Bottone on controls. Un gruppo che verranno in Italia a suonare dal vivo in ottobre. Sono di Depeche Mode and this is Dream On. As your bony fingers close around me, long it's been me, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, debt to cover your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Time for hesitating, pain is ready, pain is waiting, prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin, it creeps beneath your crawling skin, it lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching, you can scratch all over, but that won't stop you itching. Curse or shame upon the universe, it knows its lines as well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Pezzo intanto che ha fatto i Dream On dopo molto tempo ed è proprio ottimo, sono i Depeche Mode e vedo pure sul loro sito che hanno avuto molto successo con la vendita dei biglietti per il loro concerto puro. Bravi loro! Il segreto del nuovo Nissan Micra è Micra Glamour, è trendissima per quello piace ai giovani, è glamour, deliziosa, con gli interni eleganti in tinta con la carrozzeria ed oggi ancora più fresca grazie al climatizzatore incluso nel prezzo su tutta la gamma. Ma se il fresco non ti interessa e hai un usato da rottamare, reggiti forte ed ascolta, Micra è tuo da 16.200.000 lire. Avete capito il segreto? No? Nuova Micra Glamour, chiedete a chi una Micra ce l'ha già. Network. Here we are again. Backside, like Jerry Lopez, so heavy.

but it's a bad admission. I was looking back to see if you were looking back. I'd be the same be looking back at you. I was looking back to see if you were looking back. I'd be the same be looking back at you. Stupendo di Sharon Nelson insieme con i Massive Attack and Safe From Harm. Allora ragazzi, you're listening to Southside. Oggi è il 26 aprile, torniamo indietro da solo 2 anni a vedere che è successo. This Day in Music 1999, Sinead Connor è diventato una prete, la prima prete donna nella Latin Trident and Church, cattolico comunque, e dice che anche se ha già fatto la messa 4 volte all'epoca, dovrebbe studiare 6 settimane prima di iniziare la sua carriera. Eccola qua, With Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love. I can see

People, are you really sure? Are you really ready? MC need here to talk to you. Hell, it's a living underground. CK, we come to kick down. Nice, easy and tight. That's the sound when I check for the mic. I said about Hell, it's a living underground. CK, we come to kick down. Nice, easy and tight. That's the sound when I check for the mic. That's right. Oh no, that's trash. Sequel says what the river can do. Give me the good time, Latino crew. With the bump, with the flex, and now we break through. Adios, amigo. Alas, to the pizza. Me and my DJ will have another area. So when you wine and die, I took a lick of time to rap crying and roll with the sound. Simple and plain, DJ Locke wants to meet again. Tell about simple and plain, DJ Locke wants to meet again. Love you big, stop loving you big. Dust, dress, sequels is what the river can do. Give it a good time, Latino crew. For the bump, for the flex, and now we break you. Adios, amigo. Hola, señorita. Me and my DJ, we're loving at the area. So we wine and dine. Take a little time to rock, wine. Roll with the style. People, are you really sure? Are you really ready? DJ Luck e MC Neat on Piano Loco, tutti pazzi, magari si stanno impazzendo perché sanno che domani è l'ultima edizione di Southside e voi la potete ascoltare dalle 18 alle 19. This is Fergal Governor saying goodbye per stasera, grazie a Roberto Bottone per i controls come sempre. E buona serata ragazzi, a domani! Southside. Per un'ora, Fergal si proietta nelle nuove tendenze. Alle 19, appuntamento con l'informazione.